Noi abbiamo condotto una prova analoga lo scorso anno su dispositivi identici a quelli di quest'anno e abbiamo potuto verificare come la tecnologia fosse in realtà già matura lo scorso anno, quindi nel 2007. I prodotti si sono evoluti soprattutto dal punto di vista dei servizi, dei contenuti offerti agli utenti, ma diciamo che il core, quindi la tecnologia che sta alla base, è la stessa. Si parla di un mercato ormai maturo, che non accenna a diminuire come vendite, ma comunque un mercato che ha già trovato la sua stabilità. Sì, a proposito di vendite, possiamo dire, come del resto tu scrivi, che il mercato è più che raddoppiato, insomma, si vendono un sacco di navigatori in Italia. Assolutamente. Il fatto che la tecnologia sia matura non implica un calo delle vendite, anzi, in Italia, ma anche in Europa e nel mondo, questo mercato è uno dei più esplosivi, forse paragonabile solo a quello dei telefoni cellulari. E anche se i prezzi sono in calo rispetto agli scorsi anni, proprio perché la tecnologia ormai costa sempre di meno, i ricavi per i produttori sono altissimi. Sì, possiamo accennare ad alcune tendenze. Tu hai già detto che ci si sta spostando sempre più verso i servizi, questo perché il pezzo di ferro, l'hardware e forse anche la navigazione, quella che poi spiegheremo più tardi, si è grosso modo stabilizzata. Quasi tutti i prodotti sono uguali o comunque sono molto simili. Assolutamente, la tecnologia che sta alla base, cioè il GPS, è lo stesso. Il Il ricevitore. ricevitore, l'hardware, essenzialmente si parla di piccoli palmari, quindi piccoli televisorini da mettere in auto, alla fine si equivalgono. I produttori puntano tanto su cosa offrire all'utente in termini di semplicità di utilizzo, quindi l'interfaccia per l'utente per rendere il prodotto sempre più accessibile a tutti. Stiamo parlando di prodotti che si vendono anche al supermercato, quindi prodotti che devono essere utilizzabili a chiunque. E stanno puntando poi sui servizi, qualcosa che renda la navigazione verso la destinazione non solo semplice, ma anche divertente, agevole, e quindi contenuti aggiuntivi, guide turistiche, itinerari, punti di interesse, poi magari vediamo di cosa si sta parlando.